del stelle brillano i miei occhi guardano il tuo viso nell'oscurità. Sensazioni magiche, il tuo cuore ormai si illumina e il tempo mai non passerà. Aina, sopra il mare noi voleremo con le ali della libertà. L'amore viene e va, questa notte non passerà. Sensazioni magiche e solo felicità, e mai non passerà.